Ragazzi degli O'Donovan Gardens è un romanzo dello scrittore irlandese Carl Parkinson che racconta l'Irlanda e la città di Dublino in una maniera in cui noi italiani, e posso dire noi appassionati d'Irlanda, non siamo abituati a pensare. Non ci sono le verdi colline, non c'è il patriottismo contro la Gran Bretagna, né le flutate sonate della tradizione musicale irlandese. Ci sono invece palazzi, tossicodipendenza, disoccupazione cronica, vite distrutte e speranze frantumate da relazioni malate, povertà e una geografia sociale simbolica che limita le persone molto più di barriere reali. Nell'Irlanda degli anni 90, in cui ancora si poteva iniziare a sentire il rampante successo della tigre celtica che poi avrebbe trionfato con la crescita economica, abbiamo i blocks nella inner city di Dublino, i grandi palazzoni oggi demoliti in cui si vive come in qualunque periferia d'Europa, in cui l'idea delle case popolari come case per tutti è diventata un ghetto a cielo aperto. Qui Carl Parkinson ambienta le storie di Kenny e dei suoi amici, i ragazzi degli O'Donovan Gardens, eroi della lotta quotidiana, eroi della sopravvivenza, una vita epica potremmo dire la loro, che viene raccontata in un romanzo denso che mescola stili diversi e costruisce attraverso tante scene un affresco di vita proletaria ai bordi del capitalismo. Chiediamo a questo punto a Carl Parkinson, che è qui con noi, di raccontarci chi è il protagonista di Blocks e qual è la vita dei ragazzi degli O'Donovan Gardens. So the protagonist is me, basically, or a alter ego version of me, alter ego version, basically me when I was growing up in the blocks, in the flats in O'Devney. What was it like to grow up there? Il protagonista sono io, cioè il mio alter ego, e durante la mia crescita, e se mi chiedi come è stato crescere lì, posso dire che è stato duro, ma anche divertente, e che come in tutte le situazioni ci sono delle parti positive e delle altre negative, però devo dire che in realtà mi sono anche molto divertito. Nella premessa della traduttrice di questo libro si usa un'espressione che fortunatamente, grazie al lavoro soprattutto di uno scrittore come Alberto Pronetti, si sta affermando anche da noi, ovvero sia di letteratura working class. Che cosa significa per te, Carl, essere uno scrittore working class e che significato ha esserlo in Irlanda oggi? There's a bit of a responsibility, I think, because there's not that many people. There's not that many working class people become writers, and certainly not from where I'm from is even a little bit lower than the working class, you know. Cosa vuol dire essere uno scrittore working class? Beh, direi che significa, insomma, una grande responsabilità, in quanto non molte persone che provengono dalla working class scrivono romanzi, e inoltre posso dire che il posto da dove vengo, comunque la mia classe sociale, è più sottoproletaria che working class, quindi un po' più giù della working class, e la responsabilità è quella di rappresentare la realtà per quella che è e conservarla man mano che questa realtà scompare, come per esempio appunto i palazzi popolari che vengono abbattuti. Con il tempo adesso forse ci sono un po' più di scrittori working class in Irlanda, ma soprattutto si parla di spoken word e di poesia, anche perché il romanzo rimane un genere per la classe media, anche se appunto penso che si inizieranno anche a scrivere più romanzi e prosa working class, ma forse si preferirà fare serie Netflix. Thank you. Thank you. Grazie.